Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. Monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai. Pulso esquerdo, bang bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carpe Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carpe Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carpe Miranda, da, da, da, da. Benvenuti a questa nuova trasmissione di Radio Città del Capo. Benvenuti. La trasmissione si chiama Ethno Chic. Beh, non è che volessimo tirarcela più di tanto, ma una trasmissione sulla musica folk, giusto per non fare troppi parrucconi, abbiamo cercato di metterla in burla e abbiamo cercato anche di cominciare con qualcosa che conoscevamo bene tutti quanti. Questa sera parliamo di tropicalismo, che era un movimento nato in Brasile alla fine degli anni 60, mescolando musica di ogni tipo. Ricordo però che negli anni 60 in Brasile c'era la dittatura e anche la musica era molto molto delicata, quantomeno bisognava starci attenti. Eh sì, perché erano certo anni pericolosi anche per i musicisti, anche se sentirete musiche allegre tra le righe, soprattutto dei testi, c'erano delle segnalazioni, dei piccoli indici, insomma, contro la censura che, insomma, regnava in quegli anni. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Questo era Caetano Veloso, Allegra Allegra, dal disco Tropicalia, che è appunto il brano che abbiamo sentito all'inizio e che è un po' il disco manifesto del 1968 di questo movimento. Questo movimento è più che proprio testi di protesta e rivoluzione in quel momento di dittatura, è proprio la musica come protesta, come cambiamento, la tipologia di suono un po' più allegro, un po' più scherzoso, ma sempre forti, rompenti, quella idea di perché no, perché io vado avanti, cioè come se fosse proprio un vento che portasse un cambiamento in quel momento di dittatura. Sì, uno stile musicale che rompeva un po' il conformismo di una certa idea di bossa nova, se pensiamo a certi dischi alla Stan Getz che ormai imperava nel mercato discografico mondiale, che invece andava a centrare quelli che erano i nervi scoperti, insomma, di questa situazione. E procediamo quindi con un altro di questi brani dal disco Tropicalia. São Paulo, São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por mil chaminés e carros gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, um atentado contra o pudor. A família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena uma bomba por quinzena. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido dos ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV, crescem flores de concreto, céu aberto ninguém vê. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar, o país todo de férias, aqui é só trabalhar. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. State ascoltando Ethno Chic, siete su Radio Città del Capo e questa puntata la dedichiamo a un movimento che ha rotto con la tradizione musicale brasiliana negli anni 60, un movimento di tropicalismo che non so in quanti lo ricordino o lo conoscano. Era nato da fondamentalmente tre personaggi, soprattutto due, Gilberto Gil e Caetano Veloso, sono molto famosi e conosciuti anche in Italia, che venivano dal nord-est, da Bahia, e poi un terzo, Tom Zé, che era anche lui di quelle zone, si conobbero, erano entrambi musicisti da giovani, più tantissimi altri che si unirono a loro in una specie di comunità musicale che voleva innovare, perché c'è poco da fare. L'immagine del Brasile che il regime dittatoriale voleva far passare era quello di sole, allegria e musica tradizionale, era quello che arrivava anche nelle nostre radio negli anni 60. Sì, perché il Brasile era molto diviso, ogni regione aveva la sua musica tipica, come tutto il mondo, ogni zona c'ha la sua musica tipica, e questo movimento è riuscito a legare tutto questo Brasile, e anche con l'influenza americana che stava arrivando, il rock, le chitarre elettriche, che nelle musiche brasiliane allora non c'era, c'era solo la chitarra, il violão, come lo diciamo noi. Quindi c'è questo arrivo di novità, di cambiamento, proprio per rompere con questo padrone, che proprio la bossa nova, che era molto importante, molto forte, ma in quello momento parlava di, cioè, c'era la musica perfetta, il suono perfetto, la poesia nelle musiche, mentre il tropicalismo era proprio, non era necessario il testo perfetto, corretto, preciso, e anche la musica, il suono era il cambiamento, il suono di portare queste questa chitarra, questo questi misto di nord, sud, centro, sud, i cavacchino, i forrò, la cuica dentro di musica rock, che è una cosa molto interessante anche. Sì, anche l'influenza sicuramente di, per esempio, degli ultimi Beatles, dell'utilizzazione di suoni presi dal paesaggio o comunque parlati, uso della lingua anche inglese, frammenti. Insomma, un lavoro anche sul testo particolarmente dirompente. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar. As espinhas do peixe de volta pro mar. Tomara que um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Já não somos como na chegada, o sol já é claro nas águas quietas do mangue. Derramemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue, molhada de vinho e manchada de sangue. Silesio, feu fuse e lesio, se a carne a cautivão, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. E questo era invece Gilberto Gil con la sua Miserere Nobis, che non è certo un brano gregoriano, ma invece che ricorda molto Sgt. Pepper dei Beatles, con la presenza in questa banda, abbiamo sentito fagotti e insomma. Sì, è una cosa molto particolare, perché si sente anche l'accento baiano parlando, cantando, e poi questa orchestra, questa musica da, cioè, banda. Da banda proprio dietro, chi lo accompagna, quindi è quello il cambiamento che portava, cioè. Ma infatti ascoltandolo non ti viene a pensare a un fagotto, cioè il suono magari lo riconosci anche, ma è difficile associare il fagotto, che è il classico strumento da musica sinfonica una musica da camera con della musica brasiliana. Con la musica brasiliana dei nord proprio, dei nord-est del Brasile, perché comunque si sente molto i nord-est in questa musica. Poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. Meu boi. Alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, pindorama, país do futuro. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Meu boi, é a mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril, santo barroco baiano, super poder de paisano, come plaque e céu de anil. Três destaques da Portela, carne seca na janela, alguém que chora por mim, um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Brejeira, Miss Linda Brasil diz bom dia. E outra moça também, Carolina, da janela examina a folia. Salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Melhor colorido, pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do sexto sentido. Voz do morro, pilão de concreto, tropicalia, bananas ao vento. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Beh, siete sempre sul 94.7 e 96.25, ma geograficamente siamo in Brasile, anzi, io non sono riuscito a capirlo, ma Mariana, come hai fatto a capire che si sente il nordestino? Io non... Al di là della musica, del ritmo, del suono, la pronuncia del cantante, quella è importante. Quindi viene fuori anche cantando? Anche cantando venne questo il nordestino. È come se noi riconoscessimo un triestino anche mentre canta. Uguale, uguale, sì sì. Io non riconosco gli accenti qui, le pronunce. Ma certo. Io lì... casa mia. Certo, sia Gil che Caetano Veloso vengono proprio da quelle parti. Sì sì. Bate macumba, oba, bate macumba, iê, iê, Tenete conto che Ethno Chic vorrebbe essere una trasmissione sulle musiche folk. Poi facciamo Bat Macumba di Gilberto Gil, che sembra una sigla da cartoni animati, ma non solo. Sì. C'è tanto d'altro, mi sa. Eccetera. C'è soprattutto la massima libertà di potersi esprimere musicalmente senza aver bisogno di una struttura strofa ritornello, per forza, insomma. C'è le limiti, c'è un po' di tutto lì, veramente etnico, c'è tutto lì. Anche i cartoni animati tipo Batman, quello vecchio però. Thank you. Allora, per un buon orecchio, se ha sentito chi c'era Batti Macumba in questo verso, anche perché era un medley di tre canzoni, con Ela Falava di Sotodogia, Batti Macumba e l'ultimo che è Frevo. Il Frevo è anche una tipologia di musica di nord-est del Brasile anche. E il compositore Rogério Duprat aveva studiato in Europa con personaggi del calibro di Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen, e quindi abbiamo proprio l'incontro tra un compositore attento alla nuova musica contemporanea di quegli anni e appunto questo mondo tropicalista a cui lui ha dato un grande contributo arrangiava molti anni, arrangiando tutti i brani di questi compositori e cercando di non solo di mettere la sua esperienza come compositore, insomma, appunto, di musica contemporanea, ma anche le influenze appunto del rock psichedelico, soprattutto anche della musica di gruppi come i Beatles, eccetera. Quindi, insomma, molte personalità che in quel periodo, anche in altre parti dell'America Latina, penso a Leo Brue, a Cuba, erano molto attenti anche a quello che succedeva al di là del loro percorso musicale accademico piuttosto che non la musica tradizionale, anche per cercare di utilizzare questi linguaggi musicali nuovi, non secondo certi stereotipi magari della musica pop rock angloamericana, ma cercando comunque di creare qualcosa di più originale, di più legato anche al proprio territorio, alla propria cultura, insomma. Yeah. Siete sempre sul 94.7 e 96.25 di Radio Città del Capo. Questo è sempre Ethno Chic ed erano gli Osh Mutantes. Poi anche qui dico, ma cosa c'è rimane di folk? Però c'è tantissimo di musica inglese o americana degli anni, di quegli anni contemporanei, siamo nel 1968, ricordo. Os Mutantes è i mutanti, i metamorfosi, trasformazioni, cambiamento. E c'è questo, si sente molte cose particolari in questo gruppo, anche perché la cantante Rita Lee era una fanatica amante di queste musiche che stavano arrivando di lingua americana, di lingua inglese e soprattutto dei Beatles. C'era proprio una innamorata, una follemente innamorata di Beatles. Si sente, mi sembra che ci siano anche dei nastri a rovescio. Sì, sì, sì. E si posso dire una, è così innamorata, così folle questa, che quando l'ho visto, ora non mi ricordo se era in America, dove era, l'ha visto, va bene, autografo, quello che era, quando lui ha chiuso, John Lennon, quando lui ha chiuso la porta, lei è andata lì a leccare i pomelli dove lui aveva toccato con le mani. Cioè, se questo non è amore, passione o follia, è puro fanatismo. Sì. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas da sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas na sala de jantar, são ocupadas em nascer. Mais um pedacinho. Tá demais, né? addirittura suoni concreti, roba che si rompe. Sì, sì, sì, e qui la musica praticamente parlava de Galateo, come doveva essere la società, cioè l'etichetta, tavolo, sapersi comportare. Sì, sì, come sapere comportarsi, cioè la musica è una metafora dentro durante una cena, però è il Galateo della società, come si deve comportare. Mentre alla fine sentiamo dei piatti rotti e una sirena. E sentiamo anche molto la vicinanza, appunto, anche qua c'è quasi un richiamo, Losing the Sky with Diamonds dei Beatles, proprio ricordiamo del 67 Sgt. Pepper dei Beatles e questo disco Tropicalia, dove c'è anche questa canzone dei Os Mutantes, è del 68. 1, 2, 3. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Esqueci, né? Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né? Tava esquecido, rapaz. Quando me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus! Ah! Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. E siamo tornati a Caetano Veloso e ai ritmi più brasiliani, per così dire. Un brano che ricordo cantato da Vinicius de Moraes, Toquinho e mi pare proprio dalla sorella di Caetano Veloso, Maria Bethânia, che Irini, e che sentiamo però fatto in modo completamente diverso, con le chitarre elettriche, con i suoni orchestrali, flauti, insomma. Sempre secondo la linea che abbiamo visto, insomma, tutti i brani che abbiamo visto, che ricordiamo vengono da questo album manifesto che si chiama Tropicalia del 1968. Ma cosa rimaneva in questo Tropicalia di folk, di tradizioni baiane e non solo? Diciamo che tra le proprio musicalmente si trova, no? Come diceva anche Mariana, appunto si sentono i ritmi del nord-est, il forró, il cavaquinho, insomma, però come dire, in qualche modo aggiornato e va a rincontrarsi con altre cose nuove che succedono in quegli anni. Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sempre assim, baby. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Questa era Gal Costa con Baby. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Ethno Chic con Babe, Mariana e Vladimiro in studio. Spero che la vostra pazienza sia stata premiata con musiche che non abbiate mai ascoltato prima, che non avete mai ascoltato prima, musiche folk per modo di dire, ma contaminate sicuramente, come piacciono perlomeno a noi. Ma anche se avete ascoltato prima, con altri occhi in questa forma. Sì, da una visuale particolare, insomma, è piuttosto... Beh, insomma, Con questa vi salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana sempre con Ethno Chic, lo ricordiamo, è musica ad indicazione geografica protetta. Si parla solo di cibo, noi invece mettiamo musica. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.